Credo che sia intanto una brutta notizia per malati in condizioni di sofferenza insopportabile che dovranno più a lungo subire quella condizione come una tortura. C'è scritto nel comunicato che l'esigenza sarebbe quella di tutelare le persone più fragili. Credo che il peggiore modo per tutelarle sia quello di impedirle di impedire loro di scegliere. Non è una buona pagina per la democrazia nel nostro paese. Siamo ricorsi al referendum proprio perché il Parlamento per 8 anni non ha mai discusso la legge di iniziativa popolare. Quello che è certo è che la nostra campagna per l'eutanasia legale non solo non si ferma, ma sicuramente andrà in porto. Ci metteremo più tempo, ma gli strumenti sono quelli delle disobbedienze civili, dei ricorsi, delle persone che si rifiutano di rassegnarsi a subire privatamente quella condizione e ne fanno oggetto di lotta pubblica, civile. Con loro e grazie a loro, come abbiamo fatto fino ad oggi, andremo avanti e conquisteremo questo diritto. Penso che la vita sia un diritto e non un obbligo. Scambiare per tutela della vita l'imposizione di una sofferenza sia un malinteso che difficilmente si può trovare nella Costituzione. È una decisione, ovviamente non possiamo che rispettarla, ma certamente non resteremo inerti e magari torneremo proprio in Corte Costituzionale su casi di persone che vivono direttamente che cosa significa sulla propria pelle il dolore e la malattia. La notte è ancora lunga, si deciderà anche su altri temi, tra i quali anche la cannabis. Cosa si aspetta? Anche questa sarà una bocciatura, secondo lei, oppure riuscirà? Io spero che, come sull'eutanasia, la questione è sostituire a un'eutanasia clandestina che c'è, che la Corte Costituzionale sa esserci, un'eutanasia legale fatta di regole e di responsabilità, e spero che almeno sulla cannabis si potrà sostituire, decidere col popolo italiano di sostituire la cannabis mafiosa e criminale con una regolamentazione fatta di informazione, di conoscenza. Se anche questo referendum dovesse essere negato al popolo italiano, sarebbe una battuta d'arresto pesante per le libertà e i diritti nel nostro paese. Sarebbe stata una grande occasione per collegare la realtà sociale con delle istituzioni su questo molto disattente. Sull'eutanasia però sono fiducioso, siamo fiduciosi, abbiamo gli altri strumenti, quelli che abbiamo utilizzato fino ad oggi, da 15 anni a questa parte, con Pier Giorgio Welby fino a DJ Fabo e Davide Trentini, le disobbedienze civili, i ricorsi, le elezioni, perché no? In qualsiasi modo credo che questo risultato sia comunque vicino per noi, eutanasia legale contro l'eutanasia clandestina che c'è già in questo paese. Continueremo ad attivare le giurisdizioni e a percorrere tutte le strade possibili per affermare libertà fondamentali della persona. Questo quesito referendario mirava a introdurre nel nostro paese scelte di fine vita che attualmente sono vietate per alcuni malati, gli stessi malati che hanno i requisiti per poter accedere al suicidio assistito. Se sono completamente immobili e non possono autosomministrarsi un farmaco, non possono esercitare la loro libertà di scelta. Oggi ne esce meno forte la democrazia del nostro paese perché i cittadini non potranno esprimere il loro volere. Quei cittadini, quel 1.240.000 cittadini che hanno firmato per il referendum. Dovremmo aspettare le motivazioni per poter intervenire e commentare in modo adeguato questa decisione. Di fatto il quesito referendario che abbiamo proposto non creava nessun vuoto normativo. Attualmente in Italia una persona può rifiutare cure, iniziare un percorso di cure palliative, accedere all'aiuto al suicidio. Rimane un'unica scelta, una scelta che, come ricordava Umberto Veronesi, attualmente è già praticata, ma in modo clandestino nel nostro paese. Noi vogliamo la legalità.